applicato a Maria la Consolata, annunziavunt gloriam meam gentibus, no? Annunzieranno la mia gloria alle genti. Va benissimo, per carità, la gloria di Maria, ma nel testo biblico è di Isaia, mi pare, è Dio che dice annunziavunt gloriam meam. Ecco, mettere la Madonna sul piano di Dio, insomma, Dio chiude un occhio, ma visto che era scritto Padre Livio, è l'ideale di donna per madre della vita, per tutti i credenti. Va bene, allora diciamo qualcosa sul peccato originale. Troverete a pagina 12 e qualcosa. Dice, il peccato fa parte purtroppo della custodia e della coltivazione del giardino, di quel giardino di cui si parla, no? Adamo, chi è Adamo? Adamo, tutti pensano che Adamo sia una persona in carne ed ossa, individua, può esserlo, e in realtà la Bibbia in un secondo momento usa il termine Adamo per riferirsi a una persona singola, ma in realtà Adamo è un nome collettivo. Adamo significa il terrestre, perché deriva da Adama, e Adama è la terra, in ebraico, nel vocabolario ebraico, Adama è la terra. Allora, Adam il terrestre, perché secondo 2, 7, mi pare, cercate, bisogna che vi leggiate poi questi capitoli, almeno i primi tre della Bibbia, sapete che ci sono due racconti della creazione. Genesi 1, che va sino al capitolo 2, versetto 4, prima parte del versetto. Noi diciamo Genesi 1:1 sino a 2:4a, prima parte del versetto 4 del capitolo secondo, che è ancora del primo racconto della creazione. Questo è un racconto di origine sacerdotale. Sono i sacerdoti che durante l'esilio di Babilonia hanno composto quel racconto in 6 giorni della settimana, perché dovevano patrocinare già l'osservanza del sabato, che era il giorno in cui a Babilonia avevano libertà di incontrarsi. Ecco, allora, essendo lontani da Gerusalemme, non avendo più la liturgia del Tempio, l'hanno sostituita con l'incontro sabbatico. Allora il sabato ha cominciato a prendere molta consistenza, e per convincerli che bisognava veramente incontrarsi a riposare, hanno immaginato che anche Dio abbia creato in 6 giorni e poi si sia riposato il 7° giorno. Avete il racconto sacerdotale della creazione, che poi i sacerdoti hanno composto in parallelo alle Numa Elish, il poema famoso della creazione attribuita al dio Marduk dei babilonesi, e anche perché gli ebrei a Babilonia, vedrete poi in che periodo, dal 587 al 538, erano un po' vittime dello splendore della liturgia dei templi pagani. E allora si sono affrettati i preti a comporre un cantico al Dio creatore, che facesse da parallelo e da contrapposto al Numa Elish dei babilonesi. Ecco, e allora avete questo primo racconto che è più recente dell'altro. Guardate cosa succede nella Bibbia. E quando hanno catalogato la Bibbia, quando l'hanno messa giù come la troviamo adesso, verso il IV secolo avanti Cristo, hanno messo prima ciò che in realtà era nato dopo, perché a mettere insieme la Bibbia come l'abbiamo adesso sono stati i sacerdoti del post-esilio, e hanno fatto correre tutto su un binario della tradizione sacerdotale, e logicamente l'hanno fatta un po' da furbi. Come primo racconto della creazione hanno messo il racconto che avevano fabbricato loro a Babilonia di Genesi 1, che poi lo capirete molto bene se lo leggete con lo sfondo di Ezechiele 37. Cercatevi Ezechiele 37, il famoso racconto delle ossa aride, che certamente conoscete, no? Profetizza figlio dell'uomo a queste ossa aride, che sono gli ebrei nella pianura di Babilonia, che non hanno più speranza, che che cantano solo più il va pensiero, ecco, del Nabucco, sono senza entusiasmi, non vogliono nemmeno più sposarsi. Persino Geremia ha scritto una lettera dicendo, insomma, smettetela per queste scempiaggini, datevi da fare, sposatevi, fate figli, perché dovete prepararvi a rientrare a Gerusalemme. Voi leggete Ezechiele 37 e poi sullo sfondo leggete Genesi 1 e lo capite perfettamente, e capite il perché il messaggio di Genesi 1 termini proprio così. Dio creò l'uomo maschio e femmina, disse crescete, moltiplicatevi, riempite la terra, come precetto fondamentale per riprendersi, come riprendere l'esistenza di un popolo. Ho chiarito la cosa, mi sembra interessante. Beh, è stato messo per primo. In realtà bisognerebbe mettere per primo il secondo racconto della creazione, al quale racconto segue il racconto della caduta di Genesi 3. Va anticipato di parecchi secoli, perché questo racconto che incomincia in Genesi 2-4b e va avanti per tutto il capitolo terzo, ecco, quindi il racconto della creazione del pupazzetto, no? Adamo, il terrestre, ecco, nel quale viene soffiato da Dio lo spirito, ecco, poi viene anestetizzato, Dio che è immaginato come un artista che crea, ecco, come ci sono ancora in Palestina quelli che lavorano a Hebron o a Betlemme, che lavorano al tornio, no? Come si chiamano, i vasai, ecco. Allora Dio ha immaginato così, allora fa questo pupazzetto, però è tanto bravo da renderlo vivo, poi però si trasforma in anestesista, si trasforma in chirurgo, tira fuori la costola. Non dimenticate che costola proprio in lingua sumerica significa vita, allora è una vita che deriva dalla vita, la vita che produce vita, ecco. Difatti Eva, il nome Eva significa la madre dei viventi, la vivente, no? E allora avete il terrestre e la vivente, no? Avete la costruzione della costola della donna, anche perché i sessi si uniscono a quel livello medio lì, soprattutto, no? Pieno di allusioni anche sessuali, il racconto. Ecco, poi con tutto quel che segue del racconto della ecco, questa sì che l'autore che immagina la processione degli animali davanti all'uomo, per dire vedi un po' se trovi un compagno nell'ippopotamo, nell'elefante, nel coccodrillo, dice no, trovo niente che mi soddisfi. Quando poi arriva Eva dice ah sì, questa è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Questa espressione, ossa delle mie ossa e carne, è l'espressione che nel vocabolario ebraico significa il massimo grado di parentela, no? Massimo grado di parentela. Questa sì che è veramente osso delle mie ossa, carne della mia. Questa la si chiamerà Isha, perché dall'Ish è stata tratta. Ish in ebraico significa uomo. Se fate il femminile ai nomi ebraici dovete aggiungere A, H finale, A, allora Ish maschile, uomo, diventa Isha femminile, uomo, questa sarà chiamata uomo perché dall'uomo è stata tratta. Avete già anche un significato profondo sotto il punto di vista sociale, direi, sotto il punto di vista di fede, la donna che non è un altro essere, è lo stesso essere, la stessa natura, la stessa del maschio, dell'uomo. E noi dopo 2000 anni non ci siamo ancora arrivati, quello è nel vocabolario almeno, questa è Isha perché dall'Ish, maschio e femmina. Il primo racconto si limitava a dire maschio e femmina li creò, ad immagine di Dio li creò. Ecco, questo era anche forse bello e importante a sottolineare. Adamo allora può indicare un individuo, perché se l'umanità ha avuto qualche inizio, la Bibbia chiama Adamo ed Eva la coppia che immagina sia stata all'origine di tutto. se poi lo diremo, volete credere nel poligenismo, ecco, con Darwin o con chissà chi, fino all'enciclica di Papa Pio XII, Redemptoris, no, com'era, no, come già che si chiamava, che nel 50 proibiva il poligenismo, l'accettazione del poligenismo, perché ecco, non riuscivano a capire come si salvasse il dogma del peccato originale. Monogenismo significherebbe che tutta l'umanità ha avuto origine da un'unica coppia, quella che la Bibbia chiama Adamo ed Eva. Poligenismo significherebbe che l'umanità può essere nata da più filum evolutivi che si sono avviati per il mondo, uno in Africa, un altro in Asia, un altro chissà dove, chi lo sa. Ecco, questo sarebbe il poligenismo. Ora, questa teoria del poligenismo evidentemente ha più difficoltà ad essere accettata in vista della tradizionale interpretazione del peccato originale, peccato che l'umanità, vi ricordate il catechismo nostro, che l'umanità commise, ma come fa l'umanità a commettere il peccato che non c'è ancora? L'umanità commise in Adamo suo capo, e che da Adamo ogni uomo contrae per naturale discendenza. Una sceleraggine questa roba. Com'è possibile passare un peccato per via generazionale? Sarebbe come dire che i genitori che sono in peccato, dando al mondo un figlio, trasmettono quel peccato. Ma tutto ci va che trasmettano le cose fisiche, le cose morali, le conseguenze no. Queste possono essere disgraziatamente passate. Ecco perché, ecco, anche qui impariamo a distinguere, perché se i padri e le madri sono ubriaconi, probabilmente i figli ne risentiranno di quel peccato di ubriachezza, ma la colpa no, le conseguenze sì, ma la colpa no. Ecco, anzi, casomai la loro responsabilità sarà diminuita proprio a motivo della colpa dei genitori. Allora impariamo a distinguere la colpa dalle conseguenze della colpa. Ora, che la colpa si trasmetta per naturale discendenza, questa è una semenza sotto tutti gli aspetti, sotto l'aspetto fisiologico e sotto l'aspetto teologico. State attenti, perché il vocabolario non è corretto ancora. A proposito della festa dell'Immacolata, se ricordate certe battute della liturgia, dice che hai preservato, che per singolare privilegio hai preservato Maria dalla colpa originale. Ma che colpa originale? Tutti siamo preservati dalla colpa originale, non tutti, e nessuno è preservato dalle conseguenze delle colpe, ma dalle colpe tutte siamo ugualmente. E tanto è vero che poi la liturgia si rimangia il tutto, e nella seconda lettura mi pare che fa leggere il testo di Paolo agli Efesini, dove dice che tutti siamo immacolati, siamo chiamati alla vocazione, siamo immacolati davanti a Dio. Ecco, queste cose fanno già parte, ci aiutano già a capire il tutto, no? Ecco. Adamo allora è il primo uomo, è semplicemente l'uomo, è qualsiasi uomo. Adamo sono tutti gli uomini. Adamo è peccatore e tutti gli uomini sono peccatori. Eccovi il messaggio, che la certezza, la convinzione che tutti, e anche oggi penso che tutti abbiamo questa forzata umiltà di dire siamo veramente tutti peccatori, qui si salva nessuno. Si salva nessuno dal peccato. E persino i santi, sapete, che non sono tali perché non erano peccatori. Anche Papa Wojtyła i suoi buoni bravi peccati ce l'avrà di certo, se non altro quello di cacciare certa gente che forse non dovrebbe cacciare secondo lo spirito di Cristo. Guardando tale, ecco, è la convinzione degli scrittori dei tempi di Salomone. Perché questo testo qui, il secondo racconto, è compreso questo qui della caduta, è un testo dovuto ai tempi di Davide e di Salomone. È un testo che noi chiamiamo Yavista, perché quando parla di Dio usa la parola Yahweh, no? Mentre i sacerdoti usavano solitamente il termine Elohim, oppure Yahweh Elohim. Nel racconto sacerdotale avete, guardate un po', in principio quando Yahweh Elohim creò, quando traducono Dio creò. Invece quando la Bibbia di Gerusalemme vi traduce il Signore, nel testo ebraico c'è Yahweh. Si tratta di testi che solitamente provengono dalla teologia dei tempi di Davide e di Salomone, d'attorno, tanto per ricordare, d'attorno agli anni 1000, ecco, lo vedete lì. Quindi questo racconto qui fa parte della catechesi o della filosofia, della teologia, che ai tempi, verso gli anni 1000, ai tempi di Davide e di Salomone, si faceva nelle scuole accademiche di Gerusalemme, perché Salomone aveva montato su una reggia di gran classe, si era ispirato molto anche alle scuole sapienziali egizie, perché oltre al resto aveva sposato una principessa egiziana, fra le mille mogli che aveva, ecco, 1700, e poi un po' di concubine, 1000, dice la Bibbia, lo condanna un pochettino per tutte ste mogli, ma poi lo glorifica per la sua sapienza, e allora siatene contenti, ecco, cosa volete. Un mio collega, padre Dalmazio, che era un francescano di tutto cuore, proprio semplice, e che eravamo colleghi alla FIST a Torino presso il seminario teologico dove convenivano i religiosi di Torino alla FIST, là che ci ospitava il Cottolengo, morto quasi improvvisamente, aveva preparato tutti i testi per il suo funerale, tutto, ma morto così improvvisamente, aveva preparato, se lo trovate leggetelo, il commento al Cantico dei Cantici, quello della Bibbia fascicoli edito dalle Paoline, dove ci aveva messo tutto il suo cuore, la sua semplicità di francescano, e poi gliel'hanno corretta, gliel'hanno mica pubblicata tutta come l'aveva scritto il commento, perché era troppo azzardato. Ma perché ho citato padre Dalmazio? No, mi è sfuggito. Proposito di Salomone. Ecco, lui diceva con la candidezza del francescano, dice, è il simbolo più bello, Salomone con tante donne così, è il simbolo più bello dell'amore di Dio, perché Dio riesce ad amare tutti gli uomini e tutte le donne, non soltanto una, tutte, perché se ne amasse solo qualcuna, diceva, non amerebbe probabilmente me, allora sarei fregato. È un'istigazione, poi, un'istigazione. Ecco, non prendetelo come istigazione a tradire. Non si tratta di tradire non amando più, si tratta di amare meglio e amare di più. Ed è anche il simbolo più bello, questo bisogno di tante donne, io penso anche per le donne, di tanti uomini. Sempre lo stesso. Vediamo ben com'è difficile andare d'accordo. Allora, non vedete tutto e solo il negativo. Vedete anche il positivo delle cose, aiutiamo la gente a redimersi dal peccato, casomai, ecco, a scoprire meglio che cosa può essere l'amore, a vincere un po' la gelosia, tante invidie, ecco, e poi ciascuno deve rifletterci su. Allora, tale è la convinzione degli scrittori dei tempi di Salomone. Guardando la storia, nessun popolo come ancora oggi, guardando la storia, nessun popolo, nessun uomo ha realizzato così pienamente il progetto di Dio da ritenersi senza peccato. Pronti a gettare pietre per lapidare gli altri, siamo costretti a ritirarci tutti, cominciando dai vecchi, non appena ci è data via libera alla sola condizione di essere senza peccato. Vi ricordate l'incontro di Gesù con una donna adultera che secondo quella legge di Mosè doveva essere lapidata? Gesù ci dice, passate a un sistema nuovo, e oppure se volete mantenere il sistema vecchio, ecco, chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Questo episodio è stato richiamato qualche settimana fa da un imam alla televisione, il quale diceva, ecco, il dovere di lapidarla c'è sempre, e però lo possiamo fare se siamo senza peccati. Ma credo che il pensiero di Gesù non fosse quello, forse che sicet simpliciter aboliamo questo sistema. E Gesù soprattutto, ecco perché siamo partiti da Gesù, che ci fa capire che cosa è il peccato. Alle volte mi chiedo perché ancora oggi nella catechesi molti partono dal peccato per comprendere Cristo, invece che partire da Cristo per comprendere il peccato, no? Come abbiamo detto, bisogna partire da Cristo, dalla nuova alleanza, per comprendere l'antica, partire da Cristo per comprendere il peccato di Adamo, così partire da Cristo per comprendere qualsiasi peccato. Il peccato del primo uomo, o più primi uomini, se vero fosse il poligenismo, come dicevamo, ha iniziato una catena a cui tutti hanno aggiunto qualche anello, e i peccati nostri sono anelli che aggiungiamo alla catena del peccato avviato da Adamo. Non è che si erediti la colpa attraverso la generazione fisica. Questo è impossibile e assurdo. Ripeto quella risposta del catechismo, evidentemente era inaccettabile. Davanti a Dio ciascuno è responsabile del proprio peccato. Oggi sentite dire che la colpa è personale, non è vero? Ecco, ciascuno vuol dire che è responsabile del proprio peccato. E perché ci sia peccato? Diceva già il vecchio catechismo, no? Di Pio X, ci va una materia, poi la piena avvertenza, deliberato consenso, tutte cose che di certo il bambino appena nato non ha. Si eredita piuttosto, ecco, non la colpa allora, chiaro? Questo, si eredita una specie di peste morale in cui viene a trovarsi ciascun uomo su questa terra in virtù della solidarietà della natura umana e di tutta la creazione, per cui subisce determinate conseguenze, come tutti rimaniamo al buio anche se uno solo colpevolmente ci toglie la luce. Responsabile sarà quello che ci taglia i fili o fa saltare il traliccio della linea, ecco, ma di fatto tutti gli altri resteranno al buio. Vi ricordate quei giorni là che sembrava che finisse il mondo perché un albero era caduto, se vero è quello che ci hanno contato, sempre. Il peccato, qualunque esso sia, è purtroppo l'unico modo di deturpare il giardino. Quel giardino che è la stessa umanità, che è il creato, dove gli uomini sono chiamati a vivere. E allora vediamo un po' le conseguenze del peccato, quali sono. È anche facile capire come quei lontani nostri antenati, in quel loro contesto di cultura geografica, storica e religiosa, quali erano i tempi di Salomone, di Davide, nell'area del Medio Oriente, abbiano pensato allo squilibrio sessuale, alle difficoltà della gravidanza e del parto, alla fatica del lavoro, all'ingratitudine della natura. Non dimenticate che là siamo nel deserto quasi tutto l'anno, è vero che adesso con le piogge del deserto fiorisce per pochi giorni, poi appena esce col sole indiavolato è tutto finito. All'ingratitudine della natura, alla morte soprattutto, come ad altrettanti castighi per il peccato del primo uomo. Ma perdoniamo questo, perché tutte le religioni, anzi, e ancora adesso, a tanti nostri poveri contadini, quando muore una coppia di conigli o un parto di un animale va male, dicono, ma perché Dio ci castiga così? Che la Bibbia... Tutte queste cose furono interpretate come conseguenza del peccato del primo uomo. E la Bibbia chiamata Adamo, trasformando in proprio un nome collettivo. quanto abbiamo detto ci consiglia ancora una volta ad essere prudenti nell'interpretazione. E anche oggi, quando sappiamo tante cose e possediamo tanti mezzi, non è facile e non lo sarà mai trovare la spiegazione ultima dei tanti fondamentali perché della nostra esistenza. Più o meno per i perché fondamentali dell'esistenza siamo né più né meno che ai tempi di Salomone, e fra 2000 anni probabilmente saranno ancora allo stesso punto. Essi ci rimanderanno sempre al mistero di Dio e al mistero dell'uomo. Più che spiegazioni filosofiche o razionali, qui abbiamo anche qualche filosofo, Stefano, adesso è un filosofo, non lo dimostra quando vi prepara il caffè, ma è un filosofo. Ecco, abbiamo delle bellissime discussioni, io da tempo che non discutevo più così, con perché sono quasi sempre solo, posso discutere con gli altri, qualche volta lo faccio, ma... Più che spiegazioni filosofiche o razionali, saranno ancora sempre un mito, una parabola, o se volete il senso della meraviglia esistenziale. Lui è anche cultore di cose orientali, e qui siamo nel Medio Oriente con la Bibbia, no? E a facilitarci un certo approccio al mistero, cioè siamo facilitati ad approcciarci al mistero più attraverso il mito, attraverso la parabola, attraverso il senso della meraviglia, che non attraverso elucubrazioni intellettuali e filosofiche e teologiche. Poi questo non significa che allora la ragione non abbia un forte peso e la filosofia e la teologia non valgano, intendiamoci. Il nostro testo, ci dicono gli studiosi, è una eziologia. Se volete ricordare questo termine, ritorna spesso per i cultori della Bibbia, la eziologia, dove il signor Ezio non c'entra, perché eziologia significa in greco una ricerca delle cause partendo dagli effetti conosciuti. Voi conoscete gli effetti, determinati effetti, ecco, una casa brucia, viene distrutta, ecco l'effetto, oppure trovate l'alloggio pieno d'acqua, è un effetto, e vi chiedete, andate alla ricerca della causa, ecco la eziologia. Vi dicono che siete ammalati di questo o di quell'altro e vi fanno la diagnosi, abbiamo dei dottori, no? Dico bene, Domenica, e fate la diagnosi, dice, andiamo un po' a vedere la causa. Ecco la eziologia, una ricerca delle cause partendo dagli effetti. Conosciamo molto bene gli effetti. La Bibbia ha tentato una ricerca delle cause, in chiave di fede però, perché non dobbiamo mai dimenticare che la Bibbia non è un libro di scienza, non è un libro di storia, anche se parla secondo la scienza, ma è prescienza di quel tempo, anche se ha parecchi elementi storici, ma non vuole essere un libro di scienza e di storia. La Bibbia è un catechismo. La Bibbia è un libro di teologia, la Bibbia è un'interpretazione di fede della realtà, della situazione, della storia. La Bibbia ha tentato una ricerca delle cause in chiave di fede. L'uomo con il peccato ha sconvolto e continua a sconvolgere l'iniziale progetto di Dio, mettendosi nei guai. Sarebbe onesto non attribuire alla volontà divina quanto di cattivo è invece da attribuire alla volontà deviante dell'uomo. Bisognerebbe che fossimo un po' più attenti, oggi e sempre, a non attribuire alla volontà di Dio, ancora dirgli grazie perché la sua volontà, ecco, tocchiamo già di nuovo il tema del dolore e della sofferenza attribuita a Dio. Ecco, in questo contesto l'uomo ha capito, e il credente può pensare che qui si sia fatta la luce della rivelazione. Cosa pensate che sia la rivelazione? Tac, lì un angelo che vi appare e che vi porta un libro scritto direttamente da Dio, o un film in anteprima della Passione, perché possiate... No, la rivelazione è qualcosa di più intimo, di più silenzioso, di più profondo, l'uomo capisce piano piano e il credente pensa che attraverso questo capire piano piano dell'uomo è la luce della rivelazione che avviene. Pensa che la lotta sul male e le sue conseguenze poteva essere portata avanti dall'umanità con difficoltà, sì, ma anche con la speranza di una futura vittoria, perché la speranza fa parte della vita. Anche oggi constatiamo quanto il serpente dentro di noi sia astuto. Ah, pensa al serpente attorcigliato, sono immagini, ma immagini molto significative. Quel testo lì, per essere del 2000, del 1000 avanti Cristo, quindi di 3000 anni fa, è un testo pieno di psicologia estrema, ecco, ma a patto che non lo prendiate alla lettera materialmente, ma per quello che vuol dire. Ecco, dicevo, sarebbe con la luce, sì, che la lotta sul male e le sue conseguenze poteva essere portata avanti dall'umanità con difficoltà, ma anche con la speranza di una futura vittoria. Anche oggi, dicevo, constatiamo quanto il serpente dentro di noi sia astuto, subdolo, quali siano le vere, pericolose tentazioni che ci prendono. Invece di perderci d'animo, di rassegnarci, di non reagire, di accomodarci alla processione dei piagnoni, rimbocchiamoci le maniche e mettiamoci a lavorare con impegno nel giardino. È valido più che mai il messaggio di speranza che deriva da Genesi 3,15, guardate un po' chi ha la Bibbia aperta, messo in bocca a Dio, come a dire che Dio non abbandonerà mai l'umanità a se stessa. Ed eccovi allora la conferma di Gesù, perché Gesù è il figlio di Dio per questo, perché Dio non abbandona l'umanità a se stessa. Io porrò inimicizia, fa dire a Dio il nostro autore. Io porrò inimicizia fra te, e sta condannando il serpente, parlando al serpente, quello che rappresenta il serpente, e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, cioè tra la discendenza del serpente e la discendenza umana, la discendenza della donna. Questa, la discendenza della donna, e quindi tutta l'umanità, ti schiaccerà la testa e tu la insidierai il calcagno. È un messaggio di speranza inaudito, perché nel momento in cui vi inizia a parlare delle disdette del peccato, delle rovine provocate dal peccato, vi annuncia la salvezza, una salvezza che non verrà da chissà dove, ma una salvezza che salirà dal profondo dell'impegno umano. Ecco, essa, l'umanità, ti schiaccerà la testa, cioè avrà la vittoria sul male, sul peccato. Questo testo, sapete che ha subito un cammino grosso, questo testo qui, perché inimicitiam ponam, me la ricordate in latino, inter te mulirem, inter sementum et semenillium, ipsa, traduceva Gerolamo, conteret caput tu. Nel testo greco invece, che traduce l'ebraico, nel testo ebraico è chiaro che il riferimento è al seme dell'uomo, alla discendenza umana. La discendenza umana collettivamente nel suo insieme vincerà il male, ti schiaccerà la testa. Il testo greco ha tradotto autos, che fu letto già in riferimento a Cristo. Egli, Cristo, in quanto Messia, ti schiaccerà il capo. Allora fu applicato a Gesù come colui che da solo avrebbe vinto il male. Poi è arrivato Gerolamo traducendo al femminile, ipsa, e fu riferito a Maria. Lei ti schiaccerà il capo. E di lì sono nate le rivelazioni, ecco, e le raffigurazioni dell'Immacolata Concezione di Maria che schiaccia. Ma non è il senso biblico quello, se non in un terzo momento, potete farlo uscire, ma in un terzo momento. Il primo, il vero significato biblico è l'umanità ti schiaccerà tutta l'umanità nel suo insieme, e non soltanto Padre Pio o qualche Madonna privilegiata, tutta l'umanità ti schiaccerà la testa. Poi possiamo e dobbiamo applicarlo per i dati evangelici a Gesù, egli ti schiaccerà, e in terzo luogo, per carità, possiamo applicarlo anche a Maria in quanto madre di Gesù e, se volete, madre della Chiesa, ma è al terzo posto. Maria è da inserire nel mistero della salvezza, come Gesù è da inserire nel progetto generale della salvezza, quale abbiamo detto in principio Dio aveva questo progetto. È chiara la cosa? Se poi qualcosa non è chiaro, abbiamo un modo gliela facciamo forse. L'uomo nella sua, ecco, la lotta tra la discendenza umana e quella del serpente, per ciò che qui rappresenta, finirà con la testa schiacciata del serpente da parte della stirpe umana. È un messaggio di ottimismo. E guardate l'ottimismo che viene ripreso dal quarto Vangelo, da Giovanni, perché il prologo è un inno all'ottimismo di Dio, all'ottimismo che Dio ha sull'umanità, non più un Dio burbero, un Dio sempre arrabbiato con l'uomo, un Dio che fa paura, un Dio che vede nell'uomo il suo nemico, ma un Dio che sogna che l'uomo possa veramente essere figlio di Dio, no? È più ottimismo di così, più speranza di così. L'uomo nella sua espressione migliore sarà sempre nemico del male e lotterà nel corso della storia per vincere. Dobbiamo trasmettere come testimonianza questo messaggio e crederci. Non c'è dubbio che in ebraico nel testo, ecco, quello ve l'ho spiegato. Ecco, andiamo oltre. Alle volte si ha la sensazione che troppi credenti non siano sufficientemente generosi nel nutrire una equilibrata fiducia nell'uomo. E abbiamo tanti elementi per essere pessimisti, per carità, specialmente in determinati periodi della storia, pensando così di essere più generosi verso Dio. Negando fiducia all'uomo, pensiamo di essere più generosi nei confronti di Dio. Non è così? Ma Dio non ha la sua gloria se non nell'uomo. Ireneo, che poi è dei primi secoli, sapete, è vescovo di Lione, ma viene dall'Oriente. Ecco, diceva, la gloria di Dio è l'uomo. Ma non sono gli idoli, non sono la gloria vera di Dio, è l'uomo. E aggiungeva l'uomo vivente, perché gli uomini morti, non è che diano molta gloria a Dio. Allora meno ne ammazziamo, meglio è. Continuiamo a tenere desto il messaggio della vita, questo significa dare gloria a Dio. Dio non ha la sua gloria nell'uomo, progetto, Dio ha la sua gloria nell'uomo, progetto del suo amore, e per questo redento da Cristo. Nella misura in cui l'uomo sarà creatore, sarà concreatore, ecco, la Bibbia ha sempre sentito questa grandezza dell'uomo, concreatore con Dio, no? Generatore di vita, questo mistero grosso ancora adesso, hanno una bella medicina a spiegarci tutto come avviene, eccetera, ma pensate a un momento, in 9 mesi da niente, viene fuori in erba un uomo, da un chicco di grano che è niente, per di più che marcisce viene fuori la spiga. Adesso non è un messaggio di risurrezione e di vita, un messaggio pasquale. Questo che cos'è? Nella misura in cui l'uomo sarà creatore e signore nel giardino. E allora come vederlo sto paradiso? È perduto o è da fabbricare? In questo senso che andiamo dicendo, il paradiso non è perduto, non è mai esistito paradiso alle origini, in questo senso, ma è da conquistare il paradiso, è da fabbricare. Questa pagina del paradiso è unica, i profeti vi diranno, ma fatevi furbi, il paradiso è quello che bisogna costruire in futuro, è tutta l'umanità che è proiettata verso un paradiso da costruire, l'immagine primitiva è solo per dirvi questo, è l'ideale. dobbiamo prestare attenzione alla scienza, direi. Tocca, sapete, questi capitoli iniziali, quanta difficoltà hanno avuto a mettere, ancora adesso non è saldato il divario che c'è stato tra la fede e la scienza con Galileo e gli altri. Dobbiamo prestare attenzione alla scienza, tocca alla scienza svelarci, se mai ci riuscirà, le segrete origini dell'universo, grazie alle conquiste su Marte o su qualche altro pianeta, se mai ci riuscirà, le segrete origini dell'universo, della vita, dell'uomo. La Bibbia si esprime secondo le ipotesi di quei lontani tempi, per questo racconto vi ho detto il 1000 avanti Cristo, ma sappiamo che non intende darci un insegnamento su cose di scienza e di storia in quanto tale. La Bibbia invece dà e ci insegna a dare un'interpretazione di fede. Lo stesso Agostino diceva che Dio attraverso la Bibbia non vuole fare degli scienziati, ma dei credenti. Secondo la scienza di oggi, l'uomo è venuto fuori dal buio dei secoli attraverso una faticosa ascesa dell'evoluzione che ha coinvolto tutto l'universo. Il credente pensa, si può accettare come credente l'evoluzione, lo sapete. Basta pensare che dietro a tutto questo ci sia un misterioso e magnifico progetto di Dio che l'uomo non ha ancora capito e che perciò non rispetta, perché se l'avessimo veramente capito, forse lo rispetteremmo. Il paradiso perduto è questo piano d'amore di Dio verso l'uomo, questo sì che è perso. L'amicizia con Dio in questo senso sì che è persa, perché l'uomo ha perso questa fiducia in Dio, questa compagnia di Dio. Il paradiso perduto è questo piano d'amore di Dio verso l'uomo, che l'uomo per egoismo, superbia, superficialità, difficoltà oggettive, rifiuta, rovinando l'esistenza del giardino. Per il resto, ma anche e soprattutto per questo, il paradiso è un compito da adempiere. Allora possiamo dire che il paradiso è da costruire. L'autore di Genesi 2:3 ha pensato ad un prima e ad un poi. Prima era così, dopo è cos'ha. Dopo, disgraziatamente, ecco, il peccato ha prodotto quel che ha prodotto. Lo ha fatto per semplificare, lo ha fatto per farci capire. Quel prima non è un tempo storico, ma è un'immagine teologica. Vuole solamente esprimere, dice Charpentier, un autore biblico molto bravo, di cui io consiglio sempre, tuttora validi, due suoi volumi per leggere l'Antico Testamento e per leggere il Nuovo Testamento. Padre Charpentier è morto giovanissimo, eccovelo lì, è morto giovanissimo, tornando a casa una notte dai corsi biblici che andava a fare nelle vicinanze di Parigi, è una morte invidiabile per un biblista. Una morte invidiabile. Ecco, ha scritto delle cose, ma anche lì sul peccato originale, ero partito dall'idea di leggervi cosa dice lì, ma qualcosa l'ho ripreso qui, dice, vuole solamente esprimere quell'immagine teologica del paradiso collocato prima, vuole solamente esprimere il desiderio di Dio, desiderio che come tale non si è mai realizzato del tutto. Dio ha creato l'uomo perché sia felice e libero. Dio non ha creato il peccato e il male. Mesters, che è un altro grande biblista che è andato a verificare le sue alte acquisizioni di studio nelle università occidentali, europee, nell'America Latina, Mesters, ha scritto un libro intitolato, se lo trovate, avevano edito in italiano, mi pare l'LDC, se ben ricordo, ha scritto il libro intitolato Paradiso, nostalgia o speranza? Se è nostalgia è qualcosa di passato, se è speranza è qualcosa da costruire. Nostalgia, provate a impostare la catechesi sul peccato originale, su tutti i peccati con questo interrogativo. Nostalgia certamente, nostalgia di Dio, nostalgia del suo amoroso progetto per noi, in principio era il Verbo, era questo progetto di Dio, non capito, non preso sul serio, non portato avanti nella libertà e nella generosità, ma proprio per questo speranza, un paradiso, un giardino da rimettere in sesto, da ricostruire, un paradiso che non è alle nostre spalle, all'origine dell'umanità, come un segno da cui siamo stati allontanati, cacciati. Questo Dio che caccia dal paradiso è il Dio delle religioni, non è il Dio della fede in Gesù Cristo. Tutte le religioni presentano un Dio bastardo del genere. È Gesù che corregge questo, che dice Dio non caccia nessuno, Dio abbraccia tutti. Dio è rappresentato dal Padre buono di Luca 15 che accoglie il figlio e gli va incontro, facendosi prendere in giro da tutti perché si mette a correre, e in Oriente non si corre mai, in Oriente chi corre è disonorato, ecco, e quel padre si fa disonorare da tutti, ma corre incontro al figlio, dice la parabola. Come non è alle nostre spalle all'origine, guardate che qui è tutto il messaggio evangelico del Nuovo Testamento. Se non facciamo questo cambio di mentalità, se non ci convertiamo a questo Dio, noi viviamo secondo un Dio perverso, secondo il Dio delle religioni. E non c'è salvezza, non c'è ottimismo, non c'è speranza, non c'è gioia di vita, perché per santi che siamo, abbiamo sempre dei peccati, abbiamo sempre un Dio lì con la spada pronto a colpirci. Se non veniamo nell'idea che Dio è amore sul serio e non si sente nemmeno offeso dai nostri peccati. Come voi genitori difficilmente vi sentite offesi da quello che combinano i vostri figli. Un giardino che è davanti a noi, nel quale siamo immersi, con il compito di portare finalmente a termine l'abbozzo dell'Adamo primitivo. I profeti, vi ho già detto, ci aiutano in questa fase.